Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Mi chiedi perché compro riso e fiori. Compro il riso per vivere e i fiori per avere una ragione per cui vivere. Confucio. Buona domenica e bentrovati nel giardino di Radio 24. Le piante certo non sono un genere di prima necessità in questo momento, ma quanto aiuto ci sta dando la primavera appena iniziata? La natura ce la sta mettendo tutta per tirarci su e darci motivo per sorridere. Basta guardare i fiori che abbiamo sui balconi, dove arrivano le api e gli altri insetti impollinatori, e anche se siamo chiusi in città, le fioriture non mancano, le vediamo dalla finestra o nel tragitto che facciamo per raggiungere il supermercato o il posto di lavoro. In un periodo normale, oggi, garden center e vivai sarebbero affollati, tanta è la voglia che abbiamo di fiori, di aromatiche, di piante. Invece, come quasi tutti, il settore florovivaistico è completamente fermo, con i suoi prodotti vivi di stagione che non potranno resistere a questa crisi e che andranno distrutti. Il 60% circa della produzione nazionale si calcola. Certo che in un momento di emergenza umanitaria, sanitaria come questo, le piante non sono la priorità, però credo che il giardino segreto sia la sede giusta per accogliere il grido di dolore, l'allarme che arriva dal settore florovivaistico, l'allarme di chi per mesi ha lavorato per offrire quello che desideriamo a primavera e che si vede costretto a buttarlo. Tra poco andiamo in Liguria, una delle regioni che sta maggiormente soffrendo da questo punto di vista, anche per capire come procurarci le piante anche con i garden chiusi. Ma prima cerchiamo di capire la situazione con Coldiretti tra le associazioni che stanno lanciando l'allarme. E allora buona domenica, Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna. Com'è la situazione? La situazione l'ha descritta bene lei. Ci sono perdite giornaliere di milioni di euro in tutta Italia, sia sul settore florovivaistico, sia sul settore lattiero-caseario, sia sul settore orticolo, per varie vicende. Questa, insomma, dei florovivaisti chiaramente è dovuta alla contingenza del momento, che sta creando appunto un blocco quasi completo delle vendite, per cui c'è una situazione veramente drammatica per loro. Nel florovivaismo quante aziende lavorano in Italia? Quante persone sono impiegate nella filiera? Ma guardi, è una filiera sicuramente molto numerosa, sono decine di migliaia di aziende con degli operatori all'interno che anche loro superano le decine di migliaia, insomma sono aziende tra l'altro che in Italia hanno certamente una tradizione molto conosciuta, cioè molto positiva, perché siamo dei vivaisti molto apprezzati in tutto il mondo, in Europa, per cui diciamo che è una situazione veramente critica nel mondo produttivo, non particolarmente nella Sardegna. Sicuramente abbiamo dei grandi florovivaisti, però certamente in alcune zone dell'Italia, penso a tutta la Toscana o alla Liguria, stanno soffrendo in maniera molto significativa. Anche perché primavera, questo è il momento dei giardini, dei garden, delle piante fiorite che vogliamo portarci a casa, dell'apertura delle campagne in qualche modo, per cui diciamo si risistemano i giardini, si preparano chiaramente alla primavera e all'attività estiva anche gli hotel, i parchi, insomma tutte le parti verdi che vanno a essere fruite, ma non solo, cioè anche all'interno dei comuni, tutte le parti verdi che vanno a essere di fruizione pubblica chiaramente, e in un momento come questo chiaramente diventa drammatica stare chiusi, stare bloccati, ecco. E poi pensiamo ai battesimi, alle comunioni, ai matrimoni che sono stati annullati, ai funerali che tragedia nella tragedia non si possono celebrare, tutte cerimonie in cui i fiori ci avrebbero consolato, ci avrebbero rallegrato, che invece andranno buttati. Sì, si sta buttando tantissimo. Guarda, è difficile anche fare una statistica, proprio perché il momento è talmente delicato e in continua evoluzione che c'è un trambusto particolare dove i produttori sono, ma anche noi un po', lo diciamo, siamo anche un po' spaesati dalle situazioni che variano giorno per giorno. Noi stiamo mantenendo la calma, tenendo in contatto i nostri produttori, stiamo cercando delle possibilità alternative attraverso degli interventi da parte del governo nazionale, che sappiamo già sta lavorando a dei provvedimenti proprio dedicati anche al settore florovivaistico, su cui Coldiretti si è, a livello nazionale, si è impegnata davvero tanto. Ma anche ha la possibilità in qualche modo di salvare il salvabile, coinvolgendo magari la grande distribuzione per quelle che sono le attività magari che si possono fare attraverso le uniche strutture che sono rimaste aperte in grado di commercializzare i prodotti. Ecco, è chiaro che oggi non si va in grande distribuzione per comprare fiori, ci mancherebbe altro. Devo dire che nei super ho trovato molte piante, ma i garden possono rimanere aperti? Naturalmente le aziende agricole restano aperte. L'attività all'interno delle aziende agricole dappertutto è sempre aperta, perché quella ci viene consentita chiaramente dal dispositivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio perché sono definite come attività fondamentali, per cui tutte le imprese agricole sono oggi al lavoro dentro le loro aziende, stanno cercando di portare avanti le produzioni, sperando chiaramente, come non so, le posso dire ad esempio quello che è il momento contingente qua, i coltivatori di carciofo. In questo momento abbiamo circa 2.000 ettari di carciofo in Sardegna in produzione. I nostri produttori in questo momento purtroppo stanno innaffiando, stanno coltivando, devono anche in qualche modo andare a raccogliere, però i canali di vendita sono completamente bloccati, perché a parte la grande distribuzione che è rimasta aperta, ma tutta quella che è l'attività dei mercati rionali, dei mercati di campagna amica, della distribuzione verso il continente, verso gli altri mercati del continente, è completamente bloccata. Quindi lei può immaginare che danno per i coltivatori sardi. Come possiamo noi dare una mano in questo momento in cui siamo obbligati a stare in casa? In questo momento chiaramente è necessario stare dentro le case, cercare in qualche modo di contenere il più possibile questo virus, che gli agricoltori tra l'altro conoscono molto bene, non nella tipologia, perché non eravamo a conoscenza del coronavirus, ma le virosi in agricoltura le conosciamo molto bene, la virulenza che combina. Quindi in questo momento è un momento delicato, dobbiamo rimanere a casa e cercare di curare quello che abbiamo. La mano avverrà certamente dopo, capire che sono aziende che hanno necessità di riprendere le produzioni e quindi devono essere aiutate nel momento in cui si sbloccherà tutto. Dovremmo prediligere il Made in Italy, le piante italiane, penso in particolare a quelle ligurie, ma anche a quelle toscane. Il florovivaismo italiano fa parte di quei Made in Italy che ci riconosce un po' tutto il mondo, no? A parte l'effetto Sanremo, ci mancherebbe, però è un qualcosa di importante. Io penso che i fiori, così come il cibo, siano un'icona italiana di riconoscimento, di orgoglio, no? Abbiamo avuto la possibilità giugno scorso, quando ancora non c'era questo disastro, di fare delle cose belle. Noi siamo riusciti a fare dentro la Medico di Spucci una cena tutta di prodotti italiani, di prodotti sardi in quel caso, ed è stato emozionante, perché è impressionante come nell'icona dell'italianità del mondo, che la Medico di Spucci, potessero esserci prodotti totalmente italiani, dalla produzione sino alla trasformazione, insomma. Questo dovremmo fare, avere orgoglio dei nostri prodotti e consumarli dopo scegliendoli rispetto agli altri, non per volere male agli altri, ma ne abbiamo bisogno tanto in Italia, come non mai. Luca Saba, da quale città ci sta parlando? Io sono da Cagliari. Lasciamoci con la descrizione della natura e delle fioriture in questo momento in Sardegna, ci faccia sognare. Adesso a marzo, in primavera, comincia a spuntare il giallo delle ginestre, che è spettacolare, senza pensare al colore del rosmarino. Io penso a tutti i fiori della macchia mediterranea, in qualche modo l'erica, l'erica arborea, l'erica scoparia, sono tutte fioriture di questo periodo della nostra macchia arbustiva. Rappresentano uno splendore della nostra isola che le assicuro che fa sognare non solo in colori ma anche in profumi, perché sono molto profumate queste piante in questo periodo. I profumi ci sono arrivati, grazie Luca Saba, direttore Col Diretti Sardegna. Ci mancherebbe, grazie a tutti. E un bocca al lupo a noi e all'Italia, ne abbiamo tanto bisogno. Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono gli affascinanti giardinieri che rendono la nostra anima un fiore. Marcel Proust. Dalla Sardegna ci spostiamo in un'altra regione i cui paesaggi, colori, profumi ci fanno star bene solo a pensarla, la Liguria. Andiamo a Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, da un agronomo vivaista che conosciamo bene, Davide Michelini, vicepresidente di ECG, perché, lo abbiamo detto, la Liguria è la regione o tra le regioni che sta pagando il prezzo più alto da questo punto di vista. Davide, bentornato. Buona domenica a tutti voi. Sì, in effetti il distretto florovivaistico Ligure nel primo mese di primavera, nel mese di marzo, quando la maggior parte delle produzioni sono pronte per essere caricate e per andare in tutti i mercati europei, perché le produzioni fiorite liguri vanno in tutti i paesi d'Europa e vanno in tutti i garden d'Italia, invece purtroppo ci troviamo ad affrontare questa terribile emergenza e quindi purtroppo vediamo le nostre piante sfiorire nelle serre in un mese che vale in percentuale quasi un terzo del fatturato di un anno. Speriamo che questa emergenza finisca presto, perché è veramente difficile vedere tanto lavoro fatto nei mesi precedenti appassire sotto i nostri occhi e non dare la possibilità ai nostri clienti di godersene. Qual è lo spettacolo che ti trovi sotto gli occhi in questi giorni quando entri in serra? Beh, la primavera si sta muovendo, abbiamo avuto un febbraio caldo e in generale un inverno piuttosto mite, quindi la stagione era piuttosto in anticipo. E infatti nel mese di febbraio si sono registrate nella prima parte anche delle buone vendite. E poi adesso che eravamo proprio lì allo sbocciare della primavera, adesso cominciano a fiorire le magnolie, alcune sono già fiorite da tempo, le camelie sono in piena fioritura e poi tutte le fioriture di stagioni, le erbacee perenni che colorano i nostri giardini, che dovrebbero andare a colorare giardini e balconi, sono qua nei nostri campi, nelle nostre serre, sui bancali di vendita dei nostri garden. E come dire, è uno spettacolo per gli occhi, per noi che però non riusciamo a godere di questa meraviglia, perché il senso di oppressione, di solitudine che ci prende quando siamo da soli nelle nostre aziende è veramente terribile. Davide, ci fermiamo un istante, i nostri sforzi in questo momento non saranno sufficienti, ma poi ci spiegherai come dare una mano al florovivaismo italiano, ma soprattutto a noi stessi, perché avere piante nei nostri appartamenti, sui nostri balconi, in questo momento di confino forzato domiciliare può fare la differenza. Ci sentiamo tra un attimo. Il giardino segreto. Un fiore è piccolo, ma la gioia che dona in un minuto non è di quelle cose che hanno un inizio o una fine. Paul Claudel. Bentornati nel giardino di Radio 24. Stiamo parlando con un vivaista ligure, Davide Michelini, vicepresidente di ECG. Le aziende agricole sono aperte e anche i garden possono restarlo se riescono a farlo in sicurezza e a transennare tutte le parti in cui non si vendono piante o articoli per animali. Vero è che non tutti i vivai riescono a rimanere aperti, molti hanno fatto scelte drastiche. Davide, l'Associazione Italiana Centri Giardinaggio come si sta muovendo? Ma allora, piante e fiori sono importantissimi per la vita di ognuno di noi, per molteplici aspetti, però non sono state annoverate tra i beni di prima necessità come gli alimentari. Per senso di responsabilità e per evitare che i cittadini girassero sempre di più e quindi andassero ad affollare i punti vendita, l'Associazione Italiana dei Centri Giardinaggio ha invitato tutti i soci a chiudere la vendita al pubblico, almeno a chiudere i cancelli, in modo da organizzare eventualmente la vendita in altri modi e comunque evitare il più possibile gli assembramenti di persone che sono tanto tanto pericolosi in questo momento di emergenza. È primavera, non dobbiamo rinunciare alle piante, non sono un genere di prima necessità, lo sappiamo bene, ma quanto possono regalarci benefici? Lo raccontiamo da tempo anche qui al Giardino Segreto, specie in questi momenti di confino in casa, negli appartamenti di città, le piante possono davvero consolarci. Ma come possiamo procurarcele? Al supermercato ci sono, ma insomma l'offerta è davvero scarsa. C'è la possibilità di averle a domicilio attraverso i garden? Infatti la cosa migliore da fare sarebbe proprio quella, infatti l'invito da rivolgere a tutti è di contattarne il proprio garden di fiducia, in modo che telefonicamente si possano avere informazioni, consigli, come di solito si fa nel punto vendita, quindi usufruire della professionalità del gardenista e degli addetti di un garden center, fare il proprio ordine telefonicamente oppure anche via mail, eventualmente si può già fare il pagamento anticipato con bonifico, con PayPal e altri mezzi, in modo che poi compito del gardenista e degli addetti sarà solo quello di fare la consegna e quindi senza nessun contatto e senza possibilità di avvicinamento ci può essere un acquisto consapevole in un garden che può offrire innumerevoli piante in questa stagione, perché come hai detto tu giustamente c'è un'esplosione di fioriture, un'esplosione di colori ed è veramente un peccato lasciare queste piante ad appassire nei vivai, nelle floriculture e quindi poi anche nei garden. E pensa che bella idea fare un regalo in questo modo, recapitare una pianta alle persone che amiamo e che in questo periodo non riusciamo a vedere. Infatti io penso soprattutto agli anziani, penso soprattutto alle persone sole e a tutti gli appassionati che non vedono l'ora che arrivi la primavera per poter godere della bellezza della natura. Quello potrebbe essere un servizio effettivamente importante come Garden, ICG, ci stiamo tutti organizzando per rafforzarlo e per implementarlo sempre di più. Quindi anche il Garden Michelini a Borghetto Santo Spirito offre questa possibilità, consegna le piante a domicilio? Sì, anche noi al Garden Michelini ci stiamo organizzando per effettuare le consegne naturalmente in totale sicurezza con i dispositivi di protezione individuale e nel miglior modo possibile, però è giusto che questo settore possa andare avanti, è giusto dare la possibilità di godere della primavera a tutti. Certo è una goccia, sicuramente non basta per il settore serviranno misure molto importanti per tutta la filiera. Però potrebbe essere un passo avanti per riuscire intanto a dare la possibilità ai clienti di godere delle piante in primavera. Davide, tu sei un agronomo, ci hai dato già molti consigli in passato, dacci ancora dei suggerimenti, quali piante scegliere in questo periodo, quali piante comprare con la modalità a distanza? Dipende un po' dalle zone climatiche, in primavera c'è veramente di tutto e di più. Direi magari di non avere fretta con le produzioni che si possono comprare anche più avanti. Interesse del settore adesso è vendere le piante fiorite che stanno fiorendo in questa stagione. Penso alle margherite, le margherite di ogni colore, dalle margherite bianche alle margherite di ogni colore. Penso alle camelie che sono ancora fiorite, penso alle erbacee perenni da fiore, che si tratti della phlox, della ubrezia o di altre bellissime erbacee perenni fiorite, ci sono innumerevoli piante, veramente c'è l'imbarazzo della scelta. E tra le piante di appartamento, per chi deve stare in casa e non ha balconi e terrazzi? Ma per esempio per dare colore alle nostre case ci sono le begonie tuber ibride, ci sono gli anturium, possiamo pensare anche alle orchidee. Le orchidee è una produzione italiana, meravigliosa. Direi che di privilegiare le piante fiorite e privilegiare le piante fiorite stagionali, che sono quelle che ci regalano le fioriture più colorate, più emozionanti in questa stagione e sono quelle che i floricoltori non possono vendere tra un mese, quando sarà finita l'emergenza. E che noi non potremo goderci tra un mese perché non ci saranno più fino all'anno prossimo, dunque questo momento così difficile è il momento giusto per ammirarle. Sì, per fare il bene nostro, delle nostre case, dei nostri balconi, dei nostri giardini e anche per dare un piccolo aiuto al settore della floricoltura, tutta la filiera florovivaistica che sta veramente pagando un prezzo altissimo. Nessuno di noi si meritava di pagare un prezzo così alto, però il settore floricolo in piena primavera sta veramente soffrendo, quindi tutti insieme possiamo colorare con i giardini e dare un segno di speranza al settore floricolo. E compriamo le piante fiorite di stagione perché altrimenti andranno buttate, perché sono esseri viventi. Sì, hai ragione Roberta, il dramma grandissimo è quello che dopo tanta fatica, tanti costi sostenuti per aver fatto fiorire queste piante, dopo il rammarico di non averle vendute, quindi non aver incassato nulla, poi ci saranno anche dei costi di smaltimento perché tutte queste piante verranno buttate, diventeranno un rifiuto organico. E quindi si aggiunge il danno alla beffa per i floricoltori. Quindi privilegiamo le piante di stagione, non facciamole finire a macerare in un cassone, portiamole sul nostro balcone. Grazie Davide Michelini. Grazie a voi, a presto e continuiamo a far fiorire la nostra vita, anche oltre l'emergenza. Ogni fiore che sboccia ci ricorda che il mondo non è ancora stanco dei colori. Fabrizio Caramagna. Non posso in una puntata come questa non segnalare anche le piattaforme di consegna online di fiori e piante per chi non avesse un vivaista di fiducia a cui rivolgersi. Non hanno certo l'assortimento dei garden, ma garantiscono la spedizione in tempi brevi a casa di bouquet e anche delle principali piante di appartamento. Una di queste l'ho provata personalmente, sto parlando di Colvin, thecolvinco.com. Partita in Spagna 4 anni fa dall'idea di 3 studenti, questa azienda ora è presente in diversi paesi d'Europa e si rifornisce di piante in Olanda e in Italia. Il country manager di Colvin, Simon Tocazian. Noi in questo momento stiamo registrando dei volumi molto superiori rispetto alla media, come sta avvenendo diciamo in tutta la categoria e-commerce. E come diceva giustamente lei, in questo momento la gente ha bisogno di prodotti come possono essere i fiori o le piante, perché sono prodotti che trasmettono allegria, buon umore e sono prodotti che servono per connettere le persone, no? Questo è un po' il nostro obiettivo anche, e per questo c'è un sacco di gente che sta acquistando fiori, appunto piante, per trasmettere auguri di compleanno, perché c'è l'impossibilità di vedersi, per trasmettere motivazione, amore, e una componente molto elevata di persone che stanno acquistando piante per avere compagnia e prendersi cura di qualcuno o qualcosa in questo periodo di solitudine. Ecco. Voi ovviamente non avete la scelta dei garden, ma avete un'offerta limitata. Quali piante offrite? Sì, abbiamo diversi tipi di piante, tra quali l'orchidea, appunto il ficus, la sansevieria e altri generi, ecco. E il nostro è un servizio che invia entro 24 ore dall'ordine, ecco. A fronte di questa emergenza e degli alti volumi che stiamo ricevendo in questo periodo, proprio in questi giorni, per l'impossibilità di gestire tutti questi volumi, alcuni prodotti possono essere inviati in più di 24 ore, ecco. Ma solitamente il nostro, appunto, lo standard del nostro servizio prevede entro 24 ore. È una cosa che segnaliamo anche sul nostro sito, appunto dovuto all'emergenza nazionale in corso, non riusciamo a garantire in delle aree, non tutto il paese, in delle aree non riusciamo a garantire la consegna entro 24 ore. Essendo Colvin una piattaforma online per la vendita di piante, i vostri clienti sono senz'altro giovani, perché gli anziani non se ne intendono tantissimo, no? Di acquisti a distanza. Sicuramente sì, il nostro è un pubblico che va dai 25 anni fino ai 50, ecco sì. Ovviamente il fattore e-commerce, il fattore online gioca un ruolo fondamentale su questa segmentazione. Ecco, dunque i giovani in mezzo ce l'hanno per mandare piante e fiori alle persone anziane che non possono uscire di casa e in questo momento si trovano isolate. Assolutamente sì, è proprio quello che sta accadendo, quello che stiamo vedendo questi giorni, di tantissime persone, tantissimi clienti che inviano appunto piante e fiori come oggetto e prodotto per far sentire la propria vicinanza, far sentire il proprio amore e affetto in un momento dove purtroppo non possiamo incontrarci, non possiamo vederci, soprattutto appunto come diceva lei, gli anziani, ed è un prodotto che trasmette emozione, trasmette appunto sentimento. Inch by inch, row by row, gonna make this garden grow. All it takes is a rake and a hoe and a piece of fertile ground. Inch by inch, row by row, someone bless these seeds I sow. Someone warm them from below till the rain come tumbling down. Pulling weeds, picking stones, we are made of dreams and bones. Feel the need to grow my own, for the time is close at hand. TheColvinco.com per ricevere piante e bouquet di fiori a domicilio e poi tutti i garden d'Italia che offrono questo servizio. In questo caso basta una telefonata. Vi saluto, spero che questa prima domenica di primavera vada nel miglior modo possibile, compatibilmente con le difficoltà che stiamo incontrando. Vi aspetto domenica prossima alle 15.30 oppure ascoltate in podcast cercando Il Giardino Segreto in www.radio24.it o nelle piattaforme che trovate in Google. Godiamoci anche solo con lo sguardo la natura che la primavera ci sta offrendo. Restiamo ottimisti e prudenti. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.